Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri, lo trovate con un motore di ricerca o comunque sulla prima pagina del Sole 24 Ore, l'edizione online, quindi su internet. Come voi sapete, io non amo affrontare casi e storie personali a meno che non siano esemplificative di una collettività più ampia, di persone che si riconoscono in quel problema. Questa volta però non ho potuto fare a meno di affrontare questa storia, perché è davvero paradossale nella sua tragicità. E sono sicuro che, pur essendo un caso personale, adesso lo ascolteremo, chissà quante persone si ritroveranno nella stessa situazione vissuta nel momento in cui un'autorità superiore decide di espropriare un bene, una cosa, un terreno. Insomma, direi, e credo di non esagerare, di espropriare la vita di una persona o di una famiglia. Allora, qui ci troviamo in Toscana, dove al nostro radioascoltatore, che si chiama Franco Arnaboldi, è stato dapprima espropriato alla sua azienda agricola, è stata divisa in due, insomma hanno fatto macerie di quella che è la sua attività professionale, e poi, dopo aver fatto questo, perché la strada, perché il terreno, il bene doveva essere espropriato in quanto lì doveva passare l'autostrada, la superstrada Pisa-Livorno per la precisione, bene, dopo il bene agricolo anche la casa, uno storico casale dell'Ottocento, si trovava più o meno nelle stesse situazioni. Una storia iniziata, pensate voi, di esproprio nel 1980, siamo al 2009, quindi dopo 29 anni ancora prosegue questa incredibile storia di espropri che coinvolge le autorità italiane ma anche la Corte di Giustizia europea. Per sentire il vivo racconto di questa storia io do il buongiorno alla dottoressa Arnaboldi, il nostro radioascoltatore toscano. Buongiorno Arnaboldi. Buongiorno a lei, dottor Galullo. Allora, tutto inizia nel 1980, momento in cui il suo terreno viene espropriato per la costruzione della superstrada Aurelia, è così? È così, proprio nel 1980, per rendere meglio l'idea, io allora avevo 39 anni di età e ora sto correndo verso i 70. Esatto, ovviamente giustamente non perde la voglia di combattere. Che cosa accade allora? Le espropriarono la sua azienda agricola? In pratica io avevo un'azienda agricola di circa 16 ettari, compresi fabbricati di origine storica granducale, quindi siamo a metà 1800. E io avevo appena finito di riattare l'intera azienda, vino e olio tanto per intenderci, e a regola d'arte, rispettando l'ambiente eccetera, anche i fabbricati, inaspettatamente, perché poi io avevo già visto il piano regolatore comunale prima di essere incoraggiato o meno ad effettuare questi investimenti, e in effetti la strada era prevista ma al di fuori della mia proprietà, quindi io tirai diritto e quindi investii un mucchio di soldi proprio per fare questo che dicevo. Certo, certo, lei era convinto e sicuro che da lì non sarebbe passata la superstrada, quindi investe. Però un bel giorno gli dicono: ci siamo sbagliati, la superstrada deve proprio tagliare in due la tua proprietà. No, io mi vedo picchiettare, è chiaro che mi vedo un tracciato diverso dal piano regolatore. Comincio, e qui comincia la vicenda allucinante, cioè io percorso esattamente da cittadino regolarmente tutto il percorso giudiziario che mi dovevo portare minimo a un risarcimento, a una soddisfazione, ma per cominciare io ricorsi al TAR toscano proprio perché l'opera era difforme dal piano regolatore che la prevedeva, e quindi qui ci fu la prima avvisaglia dello Stato che invece di procedere il cittadino ti tira avanti eccetera. Lì allora ho cominciato TAR toscano, poi cambiarono addirittura l'assetto riportandolo sul picchettato, cioè roba da delinquenza, insomma. E in poche parole io allora cominciai il ricorso alla Commissione Agricola Provinciale, poi arrivai in Corte d'Appello perché avverso la Commissione Provinciale bisognava ricorrere alla Corte d'Appello. Niente, durante l'iter di questa Corte d'Appello, che è la prima fase di Corte d'Appello che ho subito io, ci si accorge, perlomeno il giudice di Corte d'Appello si accorge che manca il decreto d'esproprio, per cui fu invogliato, invitato di ritornare in primo grado a Livorno perché si trattava di accessione invertita, quindi l'opera è stata costruita senza spiccare questo decreto. Ebbi il coraggio di ritornare in primo grado a Livorno e dopo 21 anni dall'inizio, quindi eravamo già nel 2001, questo per abbreviare i tempi, da parte mia, non da parte dello Stato, nel 2001, quindi dopo 21 anni, ebbi la soddisfazione della prima sentenza favorevole. Era discretamente soddisfacente, quindi io mi soddisfacente dal punto di vista del risarcimento, vale a dire del quantum lo Stato voleva darle per questa opera, per questi immobili espropriati, così? Ma fu il giudice che stabilì, perché lo Stato in pratica non voleva e non vorrebbe e non vuole dare nulla. In pratica io non avevo più diritto a risarcimento di indennità di esproprio, ma è la causa, proprio perché è cessione invertita. E quindi era diventata una causa per danni, mi si doveva pagare tutta la svalorizzazione di tutta l'azienda che avevo, divisa in due, la superstrada passava 40 metri dal casale principale. Certo, ecco, io non oso nemmeno chiederle quanto ha dovuto pagare in avvocati per difendersi, per difendere i suoi diritti, perché suppongo sia una cifra allucinante, probabilmente con la quale avrebbe potuto investire chissà quanto e chissà cosa per creare anche occupazione e lavoro nella sua azienda. Di giudici, periti di parte. Immagino. Ecco, ma io vorrei arrivare ai nostri giorni, perché mi pare di capire che comunque lo Stato voglia continuare con questa causa di espropriazione anche del suo immobile, ma voglio dire, si possono espropriare così, in questa maniera, gli affetti, l'amore, la famiglia, la tradizione e anche la storicità di un comune, di un paese, di un pezzo di storia italiana, perché comunque anche la casa, la sua dimora dovrà essere espropriata. In pratica è passata talmente vicino alla superstrada stessa che in pratica ha svalorizzato, ha svilito, cambiando addirittura il tipo di vita. Cioè io ho dovuto vivere tutti questi anni come se fossi in trincea. E a questo punto... Dopo la decisione di primo grado, la controparte non pagava, ricorso in appello, il giudice di corte d'appello, qui chiamo in causa la giustizia, ebbe il coraggio di stoppare l'esecutività della prima sentenza, per cui io ancora non incassai nulla, ricominciai a percorrere la corte d'appello e qui ci siamo per la seconda volta, finché ottengo anche soddisfazione, sentenza favorevole anche in corte d'appello. Purtroppo ormai erano passati 26-27 anni, quindi è roba di 2-3 anni fa. Certo. Mi sono visto addirittura debitate le spese di registro per la registrazione della sentenza comunque favorevole, mi sono visto addebitare tutte le spese di CTU, quindi... Sì, insomma, degli esperti che hanno valutato poi questo bene immobiliare che dovrà essere messo in quest'asta giudiziaria, praticamente venderanno la sua casa. Io ricordo che Arnaboldi, dottor Franco Arnaboldi, è un pensionato che vive con 612 euro al mese, voglio dire, non stiamo parlando di un ricasso che può permettersi questo e quest'altro mondo, dico bene Arnaboldi? Sì, anche perché avevo finito di investire una grossa cifra prima che mi si espropriasse allora nell'80. Poi dopo, durante i lavori, strada in atto, io ho avuto il coraggio di ripartire, di rifare tutti dai rottami che avevo praticamente trovato, ho avuto il coraggio di rispendere, investire per rifare comunque un'azienda, per ridare ancora un tono, un ambiente al fabbricato e quindi alla mia esistenza stessa. E ora addirittura si vuole allargare e convertire in autostrada l'arteria stessa, e mi trovo a dover vedermi rincorso anche dal CTU di corte d'appello dopo una sentenza comunque vincente, che niente, in maniera agguerrita, al contrario di quello che fa lo Stato che fugge, invece mi si vuol far pagare addirittura le spese di perizia di appello, e io, non essendo in grado di pagare, ecco che corro il rischio, e purtroppo è imminente, di perdere anche l'abitazione. Ecco, lei che cosa... Che lanci un appello attraverso Radio 24, cioè a chi vuole rivolgersi per chiedere che cosa, Arnaboldi? Ma io non so più a chi rivolgermi, perché mi sono rivolto a tutti gli stati, fino addirittura al Presidente della Repubblica, prima al Presidente Scalfaro, poi al Presidente Ciampi, eccetera, e non so più a chi rivolgermi. Io purtroppo sono arrabbiato verso le istituzioni, non credo quasi più alla giustizia. Siamo di fronte proprio all'atto finale, io non so più nemmeno se il paese è civile, non so più a chi rivolgermi, io credo, invoco giustizia ma non so più a chi rivolgermi. Certamente, anche perché io vorrei partire da un punto che Arnaboldi ha detto all'inizio del suo racconto, vale a dire che, secondo la testimonianza di Arnaboldi, il tracciato non doveva essere quello, è diventato quello successivamente. Quindi mi domando, se questo fosse vero, chi ha avuto il coraggio poi di spostare questo tracciato, chi ha avuto il coraggio di mandare al macio gli investimenti e chi ha avuto il coraggio di far passare quello che ha passato un cittadino italiano per 30 anni con il risultato di trovarsi poveri in canna, con l'azienda tagliata in due dall'autostrada, da qualche parte per carità di Dio l'autostrada dovranno pur passare, ma con un risarcimento che attende da 30 anni e con una causa in corso per la casa che deve andare in asta giudiziaria, anche perché soldi per continuare a pagare Arnaboldi non ne ha più. Io lo ringrazio per la sua testimonianza e per la sua storia, andremo a vedere come sarà andata a finire questa vicenda. Nel frattempo le auguro ovviamente il meglio, Arnaboldi. Ringrazio in regia Carmelo Lauricella, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento ad una nuova puntata.